Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi. Dunque, rottura tra la Grecia e i creditori internazionali nel tavolo tecnico di Bruxelles. Ora la palla passa all'Eurogruppo. Atene ferma sul taglio del debito, ma Berlino replica no ai ricatti. Il Fondo Monetario Internazionale chiede scelte dure da tutte le parti in campo, mentre Varoufakis avverte Grexit insensata, ma è impossibile escluderla. Pessimista Weidmann, sale la probabilità ormai che non si trovi l'accordo. Sarà un momento cruciale la prossima riunione dell'Eurogruppo giovedì a Lussemburgo. Dopo il fallimento dei negoziati del fine settimana tra la Grecia e i suoi creditori, il dossier passerà ai ministri delle finanze. Il tentativo del governo greco è di indurre i governi a una decisione più politica che tecnica. Tra le altre cose, il premier Alexis Tsipras vuole ottenere un alleggerimento del debito pubblico, ormai al 180% del prodotto interno lordo. La richiesta è sostenuta dal Fondo Monetario Internazionale, ma è respinta da molti paesi della zona euro. Nel fine settimana le trattative sono fallite perché il divario tra le parti rimane significativo, secondo un portavoce della Commissione. Per garantire nuovi indispensabili prestiti, alla Grecia i creditori chiedono nuove riforme, soprattutto sul fronte pensionistico e nel diritto del lavoro. Per ora il governo greco si è rifiutato per paura di provocare spaccature nel partito Syriza, che è profondamente diviso all'idea di nuovi tagli negli assegni previdenziali. La Grecia deve 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale alla fine di questo mese. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sulle vicende legate all'immigrazione è intervenuta poco fa Natasha Berthou, portavoce del commissario Unione Europea all'immigrazione. Ha detto che la Commissione è al corrente dei controlli alle frontiere di Francia, Austria e Svizzera con l'Italia e stiamo verificando la situazione. Poi ha aggiunto: ricordiamo che tutti devono rispettare Schengen e le regole del sistema di asilo europeo. Come avete sentito anche nel corso di Effetto Giorno, per quanto riguarda l'emergenza migranti, Parigi dice che i migranti non passano, che se ne deve occupare l'Italia. Tanto ieri il trattato di Schengen ha compiuto 30 anni, un accordo con cui il vecchio continente scelse di abbattere le proprie frontiere, mettendosi alle spalle una storia tragica, segnata da conflitti e da dispute territoriali. Ma si tratta di un compleanno amaro, perché Schengen è stretta tra gli scontri sull'immigrazione e sulla crisi, le forze più conservatrici e euroscettiche che spingono infatti per la sua abolizione. Ricordo che Schengen è nato il 14 giugno dell'85, l'Italia aveva aderito con forza già nel 1990, l'entrata in vigore è stata nel 97, fortemente voluto dall'allora presidente del Consiglio Romano Prodi, che ne rifiuta l'eliminazione anche se dice che si può rivederne il suo funzionamento. Lo ha intervistato Anna Marino. Era tutto diverso. Allora Schengen era visto come un obiettivo di solidarietà a cui bisognava giustamente adeguarsi. Adesso questi passi indietro della politica vedono Schengen un nemico, vedono qualcosa che impedisce il benessere dei popoli, quindi è un rovesciamento completo della mente. Le norme sull'immigrazione erano nodali anche allora, erano importanti anche allora. Certo, che erano importanti, ma erano visti come un passo in avanti necessario per costruire una politica di solidarietà europea. C'era comunque un'emergenza anche allora. L'immigrazione esiste da quando esiste l'umanità. Con Schengen la si voleva regolare in modo positivo e con la collaborazione di tutti, tant'è vero che c'era, come ha detto lei, questa corsa a fare parte di Schengen per la costruzione europea stessa. Allora c'erano politiche migratorie di Berlino, Parigi e di Schengen avvicinate. soprattutto c'era l'obiettivo di avvicinarle ulteriormente. Oggi vede, i comportamenti sono gli opposti, a Ventimiglia li buttano indietro e li rifiutano, negli altri confini uguali e siamo in un altro mondo. Quindi, secondo lei, che cosa bisognerebbe fare adesso per salvare Schengen? Per salvare Schengen bisogna fare una politica di circolazione delle persone unitaria a livello europeo, coordinata, che si prenda cura sia dei problemi tradizionali sia dei problemi nuovi. Bisognerebbe modificare il trattato? I trattati vanno sempre modificati, ma qui stiamo diventando matti, teniamoci Schengen se non riusciamo a migliorarne il funzionamento. Non c'è dubbio, è un ritorno al nazionalismo. Quando si faceva Schengen nessuno sognava che si potesse tornare indietro al punto in cui si sbattono indietro le persone. È tutto per Europa 24, vi ha parlato Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.